Dialog. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Le immagini che purtroppo riguardano, lì vedete anche il Palazzo del CONI, questo assetto da guerriglia con la polizia, con i carabinieri impegnati anche a fronteggiare qualche esagitato. Il peggio è accaduto un'oretta fa. È lì la cosa grave che è successa, in zona Ponte Milvio, questi due accoltellamenti, fortunatamente non gravi, ma addirittura con l'ambulanza che è arrivata per soccorrere i due ragazzi accoltellati, l'ambulanza del 118 che è stata a sua volta fatta oggetto di lancio di pietre, bastonate e lancio di petardi, qualcosa di veramente inaudito. E poi questo è accaduto un'ora fa, circa un quarto d'ora, 20 minuti fa, le immagini che vi abbiamo fatto vedere della carica che la Celere ha effettuato nei confronti di tifosi incappucciati, occhiali da sole ovviamente per non essere riconosciuti, che hanno fatto irruzione nel piazzale antistante allo stadio, quello dell'Obelisco per capirci, davanti al Palazzo del CONI, dal Ponte Duca d'Aosta si sono infilati in mezzo. Questa era la cronaca di quello che è accaduto lunedì a Roma. Voi direte, un episodio come tanti, i feriti poi sono stati 8, non 2, ma non è tanto il numero, è che, vi dico da testimone, il clima che si respirava era molto singolare, perché da una parte viviamo nel centro nevralgico di quello che è il sentore di stallo, di crisi nel nostro paese, a poche miglia di distanza, miglia in senso immaginario, tra il palazzo con tutte le sue contraddizioni, con tutti i suoi stalli, con tutto l'occhio che ha addosso dell'Italia preoccupata, accadeva qualcosa che mi sembrava appartenere ad altri tempi. Io mi vedevo passare le ambulanze sotto casa, sentivo i botti e il tumulto, e si poteva sentire a finestra aperta quasi, e mi rendevo conto, leggendo, guardando e osservando, quello che stava accadendo. Qualcosa sembrava non appartenere più, non aver più ragione di esistere in questo particolare momento. Forse è una mia impressione, forse è una mia banalissima lettura che non corrisponde al sentire generale di tutti. Ma vi sembra il momento questo in cui ci si debba anche preoccupare degli ultra agli stadi? Che significa un grande dispendio di forze, di ordine pubblico, di polizia, di attenzione, di dispiego di mezzi? Quando io vedo che ci sono persone che propongono per risparmiare, come è stato proposto dal Movimento 5 Stelle nell'Empolese, di risparmiare sui viaggi nei luoghi della memoria. Per risparmiare soldi non mandiamo più gli studenti a visitare i lager, così risparmiamo soldi. Ecco, perché ancora accadono cose del genere? Che una città sia mobilitata, sia paralizzata, sia fermata perché delle persone che vanno a vedere la partita poi si accoltellano e fanno a botte? Beh, questa è la domanda che faccio oggi. Vorrei richiamare l'attenzione su quello che è il tifo violento negli stadi, su quella che è l'organizzazione sistematica del casino negli stadi, su quello che è l'impatto sull'ordine pubblico, sulla nostra serenità, sulla nostra spesa generale di queste persone che non sa per quale ragione ancora non sono toccate loro dalla crisi, dall'angoscia, la paura che attraversa tutto il paese senza nessuna, quasi nessuna distinzione. O questa è la loro forma di ulteriore reazione a quello che stiamo sentendo tutti? 800 24 00 24. Ma lei pensa che spaccare la faccia alla gente sia una cosa che mi piace? Ogni domenica noi siamo di fronte a gente come Sartuni, che quando ti dice bene ti sputa addosso, quando sono più incazzati ti tirano di tutto, e un bravo celerino deve rimanere fermo, immobile, proteggersi con lo scudo che abbiamo in dotazione. Poi quando i tifosi sono ancora più incazzati, allora, e solo allora, se il funzionario autorizza, possiamo difenderci. E a quel punto ti trovi in mezzo a una battaglia, e l'unica cosa che pensi dentro di te è come tornare vivo a casa. Ma c'è un modo solo per farlo, però: rimanere lucido. Ma in quei momenti c'hai il cuore che ti batte forte, l'adrenalina che sale a mille, la testa che ti rimbomba, che sembra che debba scoppiare dentro al casco. Non senti niente, c'hai solo i tuoi fratelli accanto, solo su quei fratelli puoi contare. Un altro degli episodi paradossali che mi ha portato a fare questa trasmissione, che in televisione, nei canali Sky, trasmettevano, come stanno trasmettendo in questo periodo, il film ACAB, All Cops Are Bastards, il film tratto da il libro di Carlo Bonini, e diretto da Stefano Sollima. Questa è la deposizione di Cobra, uno dei tre poliziotti protagonisti appunto di questa storia, che è stato portato in tribunale perché ha spaccato due denti dando il casco in faccia a un tifoso. Si sente la deposizione del tifoso, dice: ma preso, ero lì, sono un povero ragazzo, ho detto che semplicemente non avevo il biglietto per entrare, ma preso brutalmente mi ha picchiato. E Cobra, con tutte le contraddizioni che ci possono essere, il celerino per necessità ma anche per vocazione, crede molto nel suo ruolo, dice: ma vi rendete conto cosa succede in quel momento? E ci sono delle scene iperrealistiche che sembravano esattamente la trasposizione in diretta di quello che stava accadendo a pochi metri da casa mia. I due schieramenti, gli tifosi, dei tifosi laziali romanisti, in mezzo alla polizia che tende a fare delle piccole cariche per alleggerire la tensione, e poi partono, si comincia lo scontro, e uno dei tre amici inseparabili, fratelli di piazza poliziotti, viene puncicato, viene preso a coltellate alle gambe, poi inizierà tutta un'altra vicenda. Beh, esattamente accadeva al cinema, accadeva in televisione, accadeva in piazza, e questa è la mia riflessione. Sono questi tempi in cui può accadere ancora questo? È cambiato qualcosa rispetto a quando Carlo Bonini scrisse questo libro, che era il 2009? Bonini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Carlo Bonini, buongiorno, autore di ACAB, abbiamo avuto più volte in trasmissione quando uscì il suo libro. C'è stata questa singolarissima cosa, che io mi sono trovato in questa situazione straniante, di vedere il film scritto e tratto dal tuo libro, e accadeva la stessa cosa a pochi metri a Ponte Milvio. Io credo che sia la dimostrazione, la prova empirica che quel nodo lì è un nodo non risolto, un nodo non sciolto, e probabilmente è un nodo su cui nessuno si è con sufficienza esercitato o si esercita perché possa trovare una qualche forma di composizione. Tu sei d'accordo, Carlo, visto che segui questa vicenda, sei stato un osservatore comunque, con tutte le controversie che ci possono essere, ma la realtà romanzata del tuo libro, del tuo film, mi sembra non differente dalla realtà. In realtà è più un documentario che un film, a parte poi delle storie personali individuali dei poliziotti. Possiamo ancora permetterci qualcosa del genere? Siamo nei momenti in cui nel taglio generale che c'è di tutte le risorse, non ne faccio soltanto un fatto di tipo economico, ma un fatto emotivo, un fatto etico, un fatto di risorse che si attingono da tutte le nostre possibilità del sentire, non soltanto dal nostro portafoglio. Possiamo ancora permetterci di dover gestire in questa maniera un problema del genere? Quale potrebbe essere, secondo te, invece una soluzione? Ma guarda, la domanda la trovo non solo intelligente ma anche molto pertinente. Paradossalmente, io credo che a questa domanda sia stata data una risposta, o meglio, è stata data per molti anni una risposta, cioè che questa roba qui fosse tutto sommato un costo sostenibile, no? Perché poi in fondo lo stadio, quello che intorno allo stadio gira, tra le altre cose, quindi anche il conflitto permanente tra diverse fazioni ultra, il teppismo, la violenza o l'odio che circonda prima, dopo, durante le partite, gli scontri, le cose che fossero un costo tutto sommato tollerabile e che in qualche modo fosse sufficiente, come poi effettivamente è accaduto, spostare questo conflitto dall'interno all'esterno dello stadio, come probabilmente gli ascoltatori sanno, soprattutto chi segue le vicende del calcio. In questi anni le politiche sulla tessera del tifoso, l'introduzione degli steward all'interno dello stadio, quindi la fine della presenza delle forze dell'ordine in assetto antisommossa dentro lo stadio, ha fatto sì che di fatto negli stadi, all'interno degli stadi, con qualche rarissima eccezione rispetto alla frequenza di qualche tempo fa, lo stadio è diventato un luogo in cui lo spettacolo, da un punto di vista visivo e pacifico, al netto delle oscenità. Sì, però scusa Carlo, si è creato un doppio spettacolo, c'è cioè un avanti spettacolo fuori dello stadio, che è il casino. Esattamente, e infatti arriviamo esattamente a questo punto. Questa risposta è una risposta miope, perché ha semplicemente spostato il problema dall'interno all'esterno dello stadio, come del resto alcuni osservatori attenti, addetti ai lavori all'epoca anche delle forze dell'ordine, avevano osservato. Ora io, la mia risposta è no, io credo che questo sia un costo che noi non possiamo più permetterci, ma non possiamo permetterci in nessun modo, non solo economicamente, ma anche, che pure diciamo, è una voce importante, perché i servizi di ordine pubblico costano, assorbono risorse, ma soprattutto emotivamente. Allora, perché questo, diciamo così, perché questo non accada, non sia più possibile, io credo che sia necessario, come è accaduto in Inghilterra nella seconda metà degli anni Ottanta, una severità draconiana. È ora di smettere di pensare che il problema possa essere risolto in fase di alleggerimento, come è stato pensato finora, di spostando il problema fuori, le persone tranquillamente seguono la partita e fuori c'è un altro tipo di spettacolo, detto aman spettacolo, in cui c'è il casino dove si sfogano, però questo sfogarsi non è che stanno chiusi da una parte e sbattono la testa sul muro, impegnano le nostre forze dell'ordine, oltre da un punto di vista fisico, anche da un punto di vista oneroso, a noi ci costa, tanto che leggo una dichiarazione fatta a Sky TG24 dal prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro dopo i disordini Roma-Lazio: non possiamo più permetterci di militarizzare gli stadi. Ma me ne rendo conto, si sta ragionando di tagliare i caffè e i cappuccini a Camera e Senato. Mi sembra che il costo invece del mantenimento di questa sorta di spettacolo sia piuttosto ingente. Enzo Letizia, buongiorno. Buongiorno. Segretario generale dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, il vostro punto di vista sulla domanda che mi sono posto questa mattina. Possiamo ancora permetterci di mantenere questa sorta di gioco degli ultra fuori dagli stadi che possono scazzottarsi e in mezzo poi ci state voi, prendete le coltellate, prendete le sassate, gli sputi, ma costa questa cosa comunque generale alla cosa pubblica anche in maniera piuttosto ingente. È possibile fare qualche cifra? Beh, costa assai, perché praticamente ogni turno di campionato, sia esso il campionato di Serie A, di Serie B e anche campionati minori, impegnano normalmente tra gli uomini del reparto mobile e quelli degli uffici territoriali, sia della polizia che dei carabinieri, non meno di 20.000 uomini ogni turno. Ecco, questa è la situazione che ci troviamo di fronte. Fortunatamente abbiamo che gli episodi di violenza che hanno trovato poi il loro massimo con l'omicidio Raciti sono fortemente diminuiti, si è riusciti a praticamente con l'assetto normativo che ha spostato, sì è vero, questo lo dicevamo anche noi da tempo, l'arena in cui c'era lo scontro, lo stadio e le immediate vicinanze dello stadio le ha spostate praticamente, diciamo così, più in là, a un chilometro. Sì, si è creato un campo di battaglia dove si sfogano. Esatto, dove prima si sfogavano in una vera e propria arena, gli scontri erano fortissimi, pericolosissimi, adesso avvengono in spazi differenti e lontano. Oddio, verrebbe da pensare, lì ha ragione sì. Bonini in una cosa, una ragione da vendere, che poi era anche, diciamo così, il suo filo conduttore del suo libro, che oggi noi non possiamo più permetterci il costo, soprattutto emotivo, in una situazione così di disagio molto forte che sta vivendo l'Italia, quel costo emotivo anche in un turno di campionato con un evento a forte impatto proprio dal punto di vista emotivo, la situazione può correre il rischio di degenerarsi. Senta, sentiamo solo un secondo. Bonini ha ragione, sì. Proprio. Dottor Letizia, solo un attimo, vorrei dare la voce a qualche ascoltatore, perché vorrei sentire anche un po' l'opinione delle persone che ci ascoltano. Abbiamo sollevato un tema che non mi sembra la solita banale lettura, l'orrore per la violenza negli stadi. Sarei un passo avanti, come sempre un approccio che facciamo molto laico, non è orrore, semplicemente non ci possiamo più permettere di dover gestire anche questa cosa. Quale potrebbe essere la soluzione? Sentiamo gli ascoltatori intanto il loro punto di vista. Franco. Buongiorno. Ascolto. Buongiorno, dottor Nicoletti. A parte il fatto, cioè lei tira sempre degli argomenti molto interessanti, anche se qualcuno può pensare a cose strane. Allora io dico una cosa, le partite generalmente le fanno in tutte le città più importanti, sia il sabato che la domenica e cose varie. E qui praticamente che cosa potrebbe succedere? Che magari non è il tifoso che va lì a tirare i sassi oppure a dare coltellate, ma potrebbero essere anche gruppi, diciamo così, estremisti, che non a caso tante volte arrestando certi personaggi si viene a scoprire di estrema destra, di estrema sinistra, di qua e di là, sotto e sopra. Potrebbe essere un'occasione per innescare la miccia. C'è uno scopo di destabilizzazione, intanto ecco, andare... Perché questo impegno delle forze dell'ordine, che man mano poi vengono così impegnate e cose varie, ma potrebbe essere anche un atto di violenza, tanto per abbassarsi e far abbassare un po' la guardia su certi tipi di attenzione. Ragione di più che non ce lo possiamo permettere. Certo, non ce lo possiamo permettere, no. Se lei aggiunge questa circostanza additiva che non avevo toccato, che potrebbe essere anche un terreno di sottile disgregazione comunque della compattezza, dello stato di vigilanza delle forze dell'ordine, ancora peggio. Gaetano, Franco ha parlato, Gaetano, se no non posso parlare a tutti, prego. Pronto, buongiorno. Sì. Io volevo dire solo questo: in Inghilterra negli anni 80, come sicuramente saprete, certo, negli anni 80-90 hanno risolto il problema non nascondendosi, non facendo finta che non esista, ma con accordi tra polizia, forze dell'ordine e gruppi, quelli più faziosi delle varie squadre, concordando posti molto lontani dagli stadi, molto lontani, si parla di 20-25 km circa, in cui le opposte fazioni si potevano menare come volevano, la polizia assisteva e alla fine portava via i feriti. Secondo me la violenza è insita nell'uomo. In Italia non si vogliono vedere queste cose, si vogliono cercare di nascondere le cose, far finta che non esistano. C'è da dire che in Inghilterra se vieni beccato a far casino in uno stadio ti fanno il processo per direttissima dentro lo stadio. Ma questa è una cosa molto buona, direi. Non è che aspettano. Immediatamente. E poi anche il fatto del sentore, il senso di sicurezza girando per Londra è una cosa che non si ha neanche più a Bologna, città vicino alla quale io abito, una città molto più piccola, un quartiere di Londra. Però a Londra tu cammini e hai il senso della sicurezza, a Bologna non più. Lei immagina, perché ho fatto questa trasmissione, è che improvvisamente... sentivo il sentore che quasi al centro, una zona centrale della città, che come è Prati Ponte Milvio, ormai fa parte del primo municipio, quindi è considerato centro, improvvisamente era scoppiata la guerriglia, ma non per nessun altro motivo che alcune persone avevano deciso di trasformarla nel loro campo di battaglia. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io ero alla Isel nell'85 quando morirono 39 persone, ero proprio lì in quella curva. Dopo 30 anni in Italia siamo ancora rimasti lì. È la cultura sportiva che manca in Italia. È inutile continuare a dire che sono frange di tifosi. Io ieri sera ero a Torino allo stadio, c'era un tifoso del Bayern fuori dal settore ospiti. Sono dovuti intervenire 5 steward perché stava per essere aggredito. Io poi sono andato lì, abbiamo scambiato le sciarpe e abbiamo fatto una foto assieme. Ma non è la curva in sé. Gli altri non lo fanno perché non sono organizzati. Ma è proprio la cultura sportiva che manca. Io alleno i ragazzini e sui campi di calcio di ragazzini di 8 anni scoppiano risse. Il calcio andrebbe fermato e ripensato a partire dai dirigenti, non voglio parlare di calcio. Vincenzo, scusi, lei parla con una persona che non ha nessun elemento né per contraddirla, perché sono totalmente digiuno di calcio, non ho mai visto una partita in vita mia, è uno dei miei tanti limiti. Però quello che dice lei è un argomento di discussione interessante che ripropongo agli ospiti dopo le informazioni sulla borsa. In realtà è malato in generale lo sport, non è che esiste uno sport retto, etico, che si svolge all'interno degli stadi e i cattivi che si scazzottano fuori, come ha detto l'ascoltatore prima, mandiamoli a scannare per conto loro in un posto lontano e poi portiamo via i feriti, i morti, via dicendo. Lei dice quindi c'è il male proprio dentro lo sport in sé. Esatto. Questo è il punto di vista di Vincenzo. Melog. La realtà condivisa. Erano lì al derby di domenica scorsa, Inter Milan. Coinvolti raccontano per difendere altri o i propri figli. La violenza a San Siro si sarebbe scatenata per uno striscione. Veramente non capisco come ci possa essere tanta bestialità. Partecipare alla partita è innanzitutto la possibilità di una festa, deve essere gioia. Sono sempre loro, teppisti nel calcio ed estremisti in politica. E così, fin dai tempi della fine della Jugoslavia, Arkan, prima di diventare un criminale di guerra in Bosnia... 800-24-0024, vi leggo qualche sms arrivato ai nostri ascoltatori rispetto alla domanda che ci ponevamo questa mattina. Possiamo ancora permetterci il costo concreto, reale, materiale, ma anche emotivo, di dover gestire i facinorosi, gli ultra al di fuori degli stadi? Diciamo che sono di due filoni massimamente le risposte. C'è chi dice massacriamoli tutti, ammazziamoli tutti, sbattiamoli in galera, sono la feccia dell'umanità. Chi è d'accordo sulla proposta dell'ascoltatore, mettiamoli in una sorta di arena, lasciamo che si scannino tra di loro se vogliono picchiarsi. Altre arrivano a soluzioni più mediate, mi fanno riflettere molti sul fatto che come mai per il rugby non si pone lo stesso problema, che pure uno sport molto fisico, molto legato sullo scontro fisico, ma dentro il luogo in cui si svolge lo sport. Ma il tifo del rugby non è paragonabile a quello del calcio, quindi il problema è proprio del calcio. L'Italia è malato il meccanismo del calcio. Poi altri mi danno altri tipi di soluzioni molto più tecniche per riuscire a risolvere il problema. Ho al telefono Carlo Bonini, ricordo che è un giornalista di Repubblica, è autore di un libro, ACAB, edito da Einaudi nel 2009, Tutti i poliziotti sono bastardi, è l'acronimo di questo film, la storia di tre celerini, Negro, Mazinga e Cobra, che nella controversia del loro dover gestire l'ordine pubblico, sentirlo anche come una missione, a volte anche dimenticarsi di quelli che possono essere i limiti del loro ufficio, ma la difficoltà è molta, soprattutto quando si gestiscono i tifosi al di fuori dello stadio. Carlo Bonini, rispetto a quanto hanno detto i nostri ascoltatori, l'arena dislocata in cui si scannano come vogliono, delle maggiori regole o regole più decise, meno mediate, meno garantiste riguardo ai tifosi quando sono presi in flagranza di reato. Io credo che insomma, gli ascoltatori abbiano centrato, un po' tutti gli ascoltatori, il punto decisivo. Riassumo, la violenza è innata nell'uomo, il calcio è diventato diciamo l'altra faccia della medaglia della violenza, è il luogo in cui la violenza si, diciamo, da dimensione sublimata diventa dimensione concreta. Allora io insisto, in questo paese non è mai stata sperimentata la tolleranza zero che c'è stata in Inghilterra. In Inghilterra la situazione, ripeto, la metà degli anni Ottanta era la stessa situazione che attraversa l'Italia ormai dagli ultimi 10 anni, addirittura peggiore. E io ricordo che le squadre inglesi vennero escluse dalle competizioni internazionali in via preventiva, cioè per diversi anni i tifosi inglesi e le squadre inglesi non hanno partecipato alle competizioni europee, a prescindere da qualunque tipo di responsabilità, come misura, diciamo, come castigo preventivo che consentisse a un paese appassionato di calcio di riflettere su se stesso. Allora, io non è mai accaduto nella storia repubblicana che una città, una piazza calcisticamente appassionata venga punita, no, per fatti come quelli di lunedì. Allora immaginiamo che cosa sarebbe successo se a seguito degli incidenti del derby si fosse deciso che la Roma e la Lazio per i prossimi 3 mesi non giocassero a Roma. Carlo, quale politico si prende la responsabilità di scontentare una fetta così grande quando li vedi tutti con l'auto blu che se ne vanno tranquilli in tribuna a farsi vedere? Scusami. Ma il punto è esattamente questo. Finché non, io credo, questo purtroppo poi fa parte del DNA di questo paese. Questo è un paese che fino a quando non ha i piedi che penzolano nel baratro, fa fatica a prendere coscienza di un problema. Quando un candidato sindaco a Roma, senza entrare nel merito, dice voglio prendere Totti come assessore alla cultura, capisci che è un po' difficile che poi si ragioni in questi termini. Ma io questo mi è ben chiaro, però deve essere ben chiaro che il problema è lì. Cioè che in realtà, nonostante tutti i tentativi faticosi, i processi per direttissima, i DASPO, il problema non è il DASPO. Il problema è che se per DASPO, volta, dico, ricordo per gli ascoltatori come me, è il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, che è un provvedimento dell'89 che dice che viene deciso che una persona viene allontanata e a volte ha l'obbligo di firma in concomitanza della partita. Quindi non si spiega com'è gente col DASPO comunque poi si possa presentare a far casino e venga arrestata. Allora, per far capire quanto poco siamo abituati, diciamo così, il mondo del calcio è abituato a subire una sanzione severa o commisurata, diciamo così, al danno. Immaginate che i tifosi della Lazio, il tifo della Lazio, i commentatori, chi si tutte le settimane commenta sui giornali, si è rammaricato della decisione del UEFA di far giocare la Lazio per 2 turni, 3 turni, adesso non ricordo, a porte chiuse, dopo striscioni razzisti e cori razzisti in una delle ultime partite che ha disputato. Scusa Carlo, un ascoltatore mi fa notare via SMS, ti dice nulla che esistano i club Roma e Lazio Montecitorio? Sì, ma questa cosa è verissima. Per questo sto dicendo che però, secondo me, per una volta, diciamo, tra le tante richieste che noi facciamo alla nostra classe dirigente, di quale colore o estrazione essa sia, forse bisognerebbe cominciare a fare questa richiesta qui, cioè che sul calcio si faccia sul serio. Ma si faccia sul serio sul piano delle sanzioni. Allora, sul piano delle sanzioni significa, perché questo significherebbe peraltro andare a leggere anche l'alibi e l'ipocrisia della Lega Calcio. Le società di calcio si muoveranno soltanto quando avranno la percezione che il problema della violenza dentro e soprattutto fuori dagli stadi tocca i loro interessi. È un problema che li riguarda, siccome in questo momento non li riguarda più, perché la società paga solo per quello che accade dentro lo stadio, ha sistemato gli steward, paga una multa per qualche petardo, per qualche fumogeno, paga una multa ridicola rispetto agli incassi per qualche striscione e lì finisce il problema. Se una società sapesse che scontri all'esterno dello stadio possono costargli, diciamo così, una sospensione, non poter giocare in casa per 1 mese, per 2 mesi, per 3 mesi, se questo lo sapesse una città, allora lì la prevenzione diventerebbe una prevenzione capillare, che è esattamente quello che succede agli stadi inglesi. Fermati un attimo, Carlo, do dare la parola a Enzo Letizia, che è segretario generale dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, che ha ascoltato fino adesso quello che hai detto, che mi sembra sacrosanto. In realtà il peso, l'onere anche concreto e reale di questa gente è passato alle società, al contribuente, a noi cittadini. Enzo Letizia, però entriamo un po' nello specifico. Voi avrete sicuramente una mappatura e un'idea di chi sia, da chi sia rappresentata la tipologia di queste persone, perché non sono un ente astratto che appaiono e scompaiono solo in occasione della partita. Li conoscete, molti li avete schedati, li avete organizzati, li avete classificati. Chi sono queste persone? Sono vecchi tifosi che possiamo definire anche dei cattivi maestri, dei quarantenni. Sono in aumento tanti e tanti giovanissimi che fanno parte di questi gruppi. Anzi, noi abbiamo condotto uno studio insieme alla Facoltà di Psicologia 2 dell'Università di Roma per capire e avere un identikit e di come praticamente i ragazzi, i nostri studenti in tutta Italia si ponevano di fronte al problema della violenza negli stadi. Ci sono due dati, uno sconfortante, che molte di queste azioni non vengono percepite come illegali, come delle vere e proprie violenze. L'altro dato confortante e che di queste vicende sono disposti a parlarne praticamente a scuola e a discuterne per trovare delle soluzioni. E qui la scuola può diventare un elemento molto importante a darci una mano per far reagire una città. Quanto incide in questa attività, parlo dell'attività illecita, non dell'attività benefica dell'istruzione e della sensibilizzazione in scuola, quanto incide l'aspetto politica estremista, quanto ha a che fare l'antagonismo esasperato con il tifo calcistico, quanto sono vicini e collimano questi mondi. E nel suo libro Bonini lo fa intendere, anche nel film si vede molto chiaramente, uno dei tre Celerini ha un figlio ultra di destra che ce l'ha col padre perché va a massacrare i ragazzi negli stadi. Incide assai, perché praticamente gli stadi sono diventati e sono rivazzi, sono forse gli unici luoghi, diciamo, dove praticamente c'è della gente che si riunisce, che si organizza per andarsi a vedere uno spettacolo, e quindi c'è un gruppo e quindi la politica si interessa di questi gruppi. Poi la politica, c'è una politica estrema che va a praticamente a trovare, trova terreno fertile all'interno delle curve, all'interno di questi gruppi, per aggregare e per far passare i suoi messaggi, a volte molto, molto devastanti. La mappatura c'è, c'è anche un certo tipo di legislazione che ci permette di poter intervenire. Ma di fronte a questo tipo di violenza così forte c'è ancora, non ci sono dei passi da fare dal punto di vista di procedura penale per renderle praticamente più efficaci, ma in questo ha nuovamente ragione Bonini, bisogna partire da un discorso di tolleranza zero, perché fino adesso tutto si è spostato in buona sostanza sulle spalle delle forze dell'ordine, con ciò che ne consegue dai costi prettamente direttamente al cittadino, ma anche dai costi di scene di violenza. Ma capisci, Enzo, Letizia, perché ho voluto fare questa trasmissione? Perché io vedo che c'è il conteggio lecito, giusto, e condivido in pieno, dei troppi uomini di scorta, dei politici che usano la loro sicurezza per andare a fare la spesa al supermercato, o che vanno con l'automobile della polizia a fare footing a Villa Borghese, via dicendo. Ne sono piene le giornali, ma è pura demagogia. Delle decine di migliaia di poliziotti, di agenti impiegati a fare non solo servizio pubblico negli stadi, non è più così, a gestire il gioco della guerra che fanno queste persone, perché nessuna forza politica se ne prende carico? Perché? Perché demagogicamente questo non paga, perché ci scontenta un sacco di elettorato, è molto più figo farsi vedere la domenica allo stadio, appunto alimentare i club a Montecitorio per l'una o per l'altra squadra. Melog, la realtà condivisa. 800240024, sono andato a immischiare in un terreno molto limaccioso nel quale rimarrò soffocato come in sabbie mobili. Mi stanno scrivendo di oscuri maneggi che ci sono per riprendersi la curva. Sembra che per riprendersi una curva in uno stadio di Roma un capo di una tifoseria pluripregiudicato stia assoldando degli zingari. Non sapevo nulla di queste conquiste di territorio, perché la curva è la sua, è il suo territorio, questo nessuno lo sa. E poi molti mi dicono non succede solo a Roma-Lazio, ma succede in tutta Italia, quest'altro è vero. Altri mi dicono: hai mai assistito a una partita di Pulcini? Scopereste genitori che aizzano i bambini. Ho visto di peggio, ho visto mamme molto ben messe che avrebbero fatto qualunque cosa perché il loro ampollo facesse la partita al posto di un altro. Matteo, buongiorno. Buongiorno signor Nicoletti. Sì. Io volevo portare una mia testimonianza di una partita categoria giovanissimi, quindi a livello provinciale. 10 anni, quanto aveva? 10, 11 anni, sì. 12 forse al massimo. Una partita che è stata sospesa dall'arbitro perché appunto colpito da un giocatore di 11 anni perché ovviamente ha visto il cartellino rosso, quindi era stato espulso e ha reagito colpendo l'arbitro, con un arbitro che avrà ovviamente categoria giovanissima, avrà fatto 4-5 partite, quindi anche lui ha le prime esperienze. C'è un bambino di 10 anni, si è sentito in dovere di menare l'arbitro perché aveva esposto il cartellino rosso. Quindi partita sospesa perché ovviamente il calciatore di 11 anni ha colpito l'arbitro con un pugno. Che mi sembra giusto, però lei dice se già cominciano così c'è qualcosa di malato nel gioco in sé. Iniziamo categoria giovanissimi, oltre ai genitori che assistono alla partita, quindi parole, insulti verso una squadra o verso l'arbitro o verso chi che sia, poi anche i giocatori di 11 anni si permettono di colpire l'arbitro perché a loro dire ha fatto una cosa ingiusta, quindi siamo a livelli veramente insopportabili. È chiaro, Matteo, chiaro, Francesco. Sì, pronto? Sì. Dunque, io volevo citare un episodio che si riferisce a circa una decina di anni fa, la partita Roma-Siena all'Olimpico. E quella partita il Siena la perse 6-0, per cui lei si può rendere conto... Lei stava per il Siena, naturalmente. Sì, certo, io ero con due miei amici di Roma, tifosi della Roma. Sì, che è successo? Erano venuti a assistere alla partita nel settore ospiti, nella curva del Siena. Sì. Finita la partita, voi dovete sapere che ci sono dei tempi tecnici, non è che finisce la partita e tu esci dallo stadio. Certo. Il settore ospiti ti fanno uscire dallo stadio un'ora dopo, per cui appunto, la partita finisce alle 5, noi usciamo dallo stadio verso le 6, ci incamminiamo dal settore ospiti, noi avevamo lasciato la macchina... Si abbia la sintesi, non voglio particolari, che è successo? È successo che noi siamo arrivati in prossimità dell'auto dove ci sono quei grandi pini secolari che sono... Non ce ne frega dei pini, che è successo? È successo che a un certo punto uno di questi miei amici di Roma ha detto fermi, via via via, scappiamo, un agguato. Siamo tornati indietro verso lo stadio a corsa, ci siamo girati e da dietro questi pini sono sbucati una ventina di tifosi della Roma e noi non avevamo assolutamente visto. Il mercoledì successivo c'era la partita di Coppa Italia a Roma-Juventus e in quello stesso posto fu accoltellato un tifoso della Juventus. Ecco, perfetto. Lei ha rischiato, ha avuto una situazione simile una settimana prima, profetica, che la settimana dopo hanno accoltellato uno, poteva accadere anche lei. Si può dire in 30 secondi. Gianni Poiti, buongiorno. Ci ha chiamato Gianni Poiti. Dimmi Gianni. Ascoltato con attenzione tutto, ho sentito ripetere cose che giustamente vengono ripetute ormai da anni. Però volevo parlare di due aspetti. Però sai, è cambiata l'area, Gianni. Ne parliamo da anni, ma sembrava che nel grasso generale che potevamo permetterci, questa era qualcosa che si tollerava. Oggi che siamo alla lesina, possiamo ancora permettercelo questo? No, ma ti dico il problema qual è. Io ho detto che giustamente vengono ripetute da anni, ho detto giustamente. Allora, quando avete accennato al problema dei lanci di fumogeni o di quello che accade dentro lo stadio, vi cito un episodio di anni fa. Durante una partita a Treviso, un tifoso del Treviso lanciò una bottiglietta che colpì il portiere avversario. I tifosi del Treviso presero questo loro tifoso, lo consegnarono alle forze dell'ordine, lui confessò di aver tirato la bottiglietta e io dissi alla radio, vediamo domani di quanti milioni verrà sanzionato il Treviso. E cosa è accaduto? 20, all'epoca in lire, 25 milioni al alla società. Ora, perché nonostante ci siano centinaia di telecamere ancora si fanno pagare le società? Perché la Lega Calcio incassa ogni anno milioni di euro perché non vuole accettare il principio che si è visto, fotografato, il recidivo pluriconosciuto che lancia i fumogeni, che lancia tutto perché fa comodo incassare soldi. Premesso questo, la soluzione di tutto quanto è in mano alla Pay TV, perché se la Pay TV, che nonostante il derby di Roma di sera abbia avuto 7 precedenti di accoltellamenti, botte, morti, feriti, incendi, le autorità dicono che per esigenze televisive... Si fa la sera? Si fa la sera. Allora, che è una cazzata enorme, farlo la sera vuol dire istigare ai comportamenti di trasgressione, di notte, quando allora, c'è... L'autorità preposta dice per esigenze televisive. Ora, non mi risulta che le autorità abbiano una televisione. Allora, la soluzione qual è? Se non si fa la partita, secondo te la Pay TV interviene con delle loro squadre armate? Perché basta una persona. Abbiamo capito, Gianni, la sigla Citalia è molto chiaro. Abbiamo capito che il problema non è che si può risolvere in questa volta. Si dice tolleranza zero, ma di mezzo sono interessi molto grossi di ogni tipo. La riprendiamo presto.